delle sorprendenti analogie tra il sistema carcerario negli Stati Uniti e le condizioni detentive imposte ai prigionieri iracheni. Questa barbarie, la barbarie sui prigionieri intendo, è infatti identica a quella che altri 2 milioni di detenuti americani, altri 2 milioni di però cittadini americani a tutti gli effetti detenuti, sono costretti tutti i giorni a sopportare. Non è un caso, certamente lo rilevava l'altro giorno Mumia Boujamal in un articolo fatto per Venire dal carcere, che le persone cui sono state affidati i prigionieri iracheni siano stati prima di arruolarsi nell'esercito guardie carcerarie. È il caso di uno dei più crudeli di questi aguzzini dei prigionieri iracheni, che Charles Graner era, prima di diventare militare, una guardia del braccio della morte di Shigrin in Pennsylvania, dove si trova Mumia Boujamal, dove altri detenuti avevano spesso mostrato sofferenza per i metodi imposti da Graner. Era noto questo militare come violento anche nel privato, tanto che la sua ex moglie aveva chiesto al giudice di impedirgli ogni contatto con i figli. Era stato guardia carceraria in Virginia invece un altro dei carcerieri di Abu Ghraib. E non sorprende quindi che abbia fatto la guardia carceraria l'uomo che è stato chiamato dal procuratore generale degli Stati Uniti, Ashcroft in persona, che si chiama Lane McCotter, l'addestratore in pratica a cui il governo americano aveva affidato 3 milioni di dollari per addestrare, appunto, con i risultati che tutto il mondo ha avuto modo di apprezzare, i soldati addetti alla gestione del campo di detenzione di Abu Ghraib. Ma Cotter aveva ed ha alle spalle una lunga teoria di maltrattamenti ai prigionieri. Si sa che nel 1997 un detenuto dello Utah che era stato affidato a lui era stato rinvenuto morto completamente nudo e legato a una catena, era uno schizofrenico, un malato mentale, tuttavia detenuto, era rimasto per quasi 17 ore attaccato a una catena finché il giorno dopo purtroppo venne rinvenuto cadavere. Era stato affidato allo stesso addestratore, ripeto, che ha poi insegnato i metodi appresi agli aguzzini di Abu Ghraib. La realtà è che queste buone intenzioni americane di restituire la libertà e la dignità, nonché la legalità agli iracheni, probabilmente non sono mai esistite. Quello che esiste e quello che abbiamo avuto modo di vedere è invece una costante e sistematica violazione dei minimi standard previsti per chiunque venga trattenuto in stato di prigionia. Dispiace molto pensare che in questo momento, oltre ai detenuti iracheni, milioni di cittadini americani subiscano angherie e violenze, e finché queste persone non avranno veramente possibilità di vivere, pur da detenuti, una dignità come è previsto da tutte le leggi internazionali, non potrà continuarsi certamente l'America a chiamarsi una nazione democratica, visto che chiunque commetta un reato e chiunque non si pieghi al volere di chi ha il comando è sottoposto a coercizione, quando proprio non a tortura fisica. Bianca Cerri per Reporter Associati, per Amisnet.